non è ancor d'ova. E pensa di a cagione la mia stolta pietà d'alto perigno. Se risorgesse il genitor nel figlio. Oh, dunque ci teme, oh, fortunate nostre cadute, vive, se bene pargoletto, tanto da voi temuto ero in latini, vive, ma custodito da noti della patria e dalle mie diligenze amorose. In esso io cielo a Roma, la più nobile spoglia, in esso io tolgo il suo maggior trofeo, al domator di Lazio, al grande.